Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Imparano molte cose qui e si trasformano. La mitezza scompare, viene a galla la loro natura vera. Abbiamo ricevuto lamentele per schiamazzi notturni. Sedetevi tutte, resteremo qui per un po'. Ha addosso qualcosa di appuntito con cui potrei farmi male? No. Bene, perché io ce l'ho. Cosa vuole? Io sono la mamma, ho paura quando lui va a tirare. Sono sempre emozionata. Sì, sono contenta che mi sia fidanzato per pugile. Perché? Perché lo fa più uomo. La regola numero uno è un elenco di cosa si può o non si può toccare. Potete toccare questo. Potete toccare questo. No, no, no, no, no, no, no. Andiamo avanti. Potete toccare questo. Potete toccare questo. No, no, no, no, no, no, no. No, mi dispiace, la legge dice che voi non potete toccare. A quanti degli ascoltatori nei giorni passati, moglie, mamma, fidanzata, nonna, nipote, figlia, amica, amante, collega, ha detto: sai, io vado a vedere con le amiche Magic Mike? Beh, state molto attenti. È accaduto nella giornata di ieri qualcosa di veramente divertente e interessante, vorrei riassumere in questa puntata. Il tema è maschio censurato e maschio allucinato. Allora, tutto ieri pomeriggio le agenzie di stampa hanno battuto accorate proteste e vibranti dimostrazioni di tutti i pugili d'Italia, dai pesi massimi agli olimpionici, alle antiche glorie come Nino Benvenuti, ai rappresentanti federazione di categoria, per una notizia che era uscita, che aveva in parte avuto conferma, che il servizio pubblico aveva deciso di togliere dalla prima serata tutti gli spettacoli che erano rappresentativi di violenza, come pugilato, karate, taekwondo, insomma tutti i luoghi in cui gli uomini mostravano il loro aspetto arcaico e combattivo. Poi in serata, dopo tutte le proteste, c'è stata una nota della RAI che ha detto che lo spostamento di queste attività in seconda serata non era dato, come tutti avevano detto, da una necessità di preservare la fascia protetta da spettacoli violenti. Ma questo in realtà tutti dicevano nel pomeriggio, dicevano che c'era stata addirittura una nota una direttiva della Commissione di Vigilanza per rispetto alle fasce protette, quindi in una nuova versione austera, parrocchial conservatrice del servizio pubblico, è bene che in prima serata le famiglie non assistano a questo spettacolo. Prenderemo atto di questo parleremo, ma cosa accade nel frattempo? Accade nel frattempo che un filmettino a cui nessuno dava due lire alle nostre latitudini incassa in sei giorni 2 milioni di euro, 2 milioni e 272 mila euro in sei giorni. Un film che è un film diretto da Steven Soderbergh, con il protagonista il muscoloso, palestrato e levigato Channing Tatum, che parla di spogliarellisti. È un film tutto fatto, del genere Pac-Man, sono questi signorini che si spogliano in dei teatrini, in dei luoghi, le donne vanno invisibili, o il vecchio Chippendale che ha assunto forme moderne e attuali. La cosa singolare è che non soltanto questo film sta spopolando gli incassi in un momento di tristissima fila ai botteghini, che ci vanno tutte donne. Noi abbiamo mandato una nostra inviata che tra poco ci riferirà e ci dirà quello che accade in questi film. Sembra che esploda un baccanale, donne che urlano, donne che si spogliano, che scompigliano. Improvvisamente sembra di essere entrato in uno di quei localini dove si festeggiano gli addii al nubilato. E cosa sta accadendo quindi in questo momento? C'è una sorta di deriva nei confronti del corpo maschile, il corpo maschile che è così fortemente esaltato nelle sue più plastiche e tenere esaltazioni nella pubblicità, nel cinema e via dicendo, ha questa duplice valenza di essere censurato qualora è belluino, vindice e aggressivo dalle prime serate, ma allo stesso tempo viene riscoperto come una delle tante fughe erotiche possibili dalle nostre donne. 800240024. Bruno Ballardini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Bruno Ballardini è un pubblicitario, ha scritto vari libri, di qualcuno abbiamo già parlato in questa trasmissione, cito qualcuno: La morte e la pubblicità, Manuale di disinformazione per Castelvecchi, L'ultimo Gesù e Saldi di fine stagione, Edizioni PM. Oltre a essere un pubblicitario esperto in linguaggi pubblicitari, è anche un esperto cultore di arti marziali, anzi uno storico delle arti marziali. Una tua prima lettura da pubblicitario e da tecnico delle arti marziali di questa censura esaltazione del corpo maschile? Ma la censura esaltazione va di pari passo con la cultura cattolica che abbiamo in questo paese, cioè alias la repressione sessuale ancora assai diffusa, soprattutto anche dopo una ventina d'anni di berlusconismo, che ha portato a vedere prima il corpo femminile in un certo modo e poi di rimando, come una specie di speculare sviluppo post-femminista, il corpo femminile, scusate, il corpo maschile nello stesso modo, simmetrico, cioè come le figurine Panini. Ed è un'attitudine masturbatoria questa. Cioè... Io leggo i titoli di due giornali, che naturalmente sono due giornali non neutri, che è Il Giornale e Libero. La box come il porno. In TV di notte, la Rai vieta la box, non la porno Rai di Freccero. È chiaro che in questo momento viene strumentalmente usato. Stiamo attendendo al telefono Franco Falcinelli, che è presidente della Federazione Pugilistica Italiana, che ieri si è molto ampiamente esperto. Giustamente, ma visto, sarà arrabbiato. Sì, arrabbiatissimo. Abbiamo visto poi dichiarazioni di tutti i più grandi pugili. Nino Benvenuti, il pugilato ti migliora, così la Rai mette KO da solo. Roberto Cammarelle, più educativi di noi, certi programmi trasmessi in TV. Gianni Petrucci, offesa alla storia olimpica, un servizio pubblico non fa così. Sarà vero, sarà falso, sarà smentito, ma sta di fatto che ieri il campionato di pugilato previsto alle 20:30 è stato rimandato a domenica sera, non prima delle 22:30, quindi forse qualcosa si sta muovendo. Silvana De Mari, buongiorno. Silvana De Mari, in questo momento l'abbiamo persa. Allora sentiamo la nostra inviata che è andata a vedere per noi Magic Mike. Arianna, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Arianna è una fedele e attenta ascoltatrice, l'abbiamo mandata in un cinema italiano a vedere Magic Mike. A che orario è andata di spettacolo? 8:30. 8:30, quindi un orario anche da casalinghe, ammesso da casalinghe, sì, e da uscita dell'ufficio. Descrive esattamente lo spettacolo. Allora, il pubblico era abbastanza eterogeneo, ragazze giovani e meno giovani, tutte donne, esclusivamente tutte donne, e dalla prima scena in poi è stato un susseguirsi di urletti, sembrava di stare a uno spettacolo vero e proprio, nel senso sembrava di essere presente allo spogliarello, anche perché più del 50% del film era girato sugli spogliarelli, quindi c'era questo coinvolgimento molto forte. Era la prima volta che un film vedevo questo tipo di partecipazione. Cioè un tifo da stadio come negli anni 50 e 60, no, diciamo dopo 70-80, in cui tu non eri nemmeno nata, nei filmini, cinemini a luci rosse, quando ci andavano i militari, i ragazzi il pomeriggio, c'era la gazzarra più esasperata. Ecco, le più vicine spettatrici alla tua postazione, che tipo di manifestazioni avevano? Beh, una in particolare mi ha colpito perché era effettivamente molto eccitata, nel senso più penso di uomini che vedono spogliarelli, quindi faccia sconvolta, agitata, era questa in particolare perché l'avevo proprio vicino. Era anche molto... sudorazione eccessiva? Beh sì, era sorprendente, tenetemi, mamma mia, accidenti e via discorrendo. Adesso non voglio essere scurrile, ma ci sono stati commenti su parti del corpo di... Siamo una radio liberale, di pure, perché ci interessa. No, diciamo che i fondoschiena erano molto apprezzati nel momento in cui venivano inquadrati e c'era lo strappo del famoso pantalone, no? Altre parti maschili in realtà passano indifferentemente? Ci sono state due scene dove si vedeva in penombra o in non direttamente il pene. Ci sono state urla perché ce n'era uno in particolare che era di misure eccessive. Sì, dipende dai parametri, dipende dalle abitudini. Anche dai gusti. Grazie Arianna, è stata preziosissima la tua testimonianza e prendiamo atto che tu ti sia sacrificata per noi, di questo te ne saremo sempre grati. Anna, buongiorno. Buongiorno. Lei cosa ne dice? Io non vorrei dare un parere un po' anziano della situazione. Anziano. Però mi è parso, io lo sono anziana. Si parla di ciccia umana, mica si parla di cose che hanno un'età. No, volevo solo dire una cosa, che mi sembra che queste manifestazioni siano un tentativo un pochino di malconcepito femminismo, in cui si rincorrono un po' certi atteggiamenti, a volte anche eccessivi, di uomini, e si pensa di essere allora alla pari. Scusi, una cosa sola, Anna, noi ci siamo beati per generazioni e generazioni di fantadonne inesistenti, di pupattole create dal bisturi e dalla inserzione siliconica, ma avranno diritto le donne di crearsi anche loro dei pupazzi, di Big Jim che ballano, si spogliano, ecco, fatti di plastica. Me questo è malinteso per gli uomini e malinteso pure per le donne. Non credo che, al di là che il sesso può essere disgiunto molto spesso dai sentimenti eccetera, perché è una cosa anche a sé stante, però penso che non sia una cosa sincera andare a vedere un uomo che si spoglia e cadere. Perché non possono avere libertà di attizzarsi tranquillamente anche le donne? No, io credo pure gli uomini, credo che non sia qualcosa di, credo che sia più una motivazione psicologica delle donne quella di voler fare come gli uomini, e credo che sia un senso malinteso di femminismo. Vabbè, se loro si divertono, però non hanno gli uomini questo atteggiamento che bisogna. Beh, però scusi, adesso fermiamoci qua, perché usciamo dal seminato. A me interessa la contrapposizione tra uomini che combattono, eliminati comunque dallo spettacolo familiare, da questa transumanza delle famiglie, verso uomini non che combattono, ma che si esibiscono, che fanno striptease, che fanno spettacoli per donne, ad uso e consumo di donne, e il loro corpo viene esposto come se fosse un oggetto. Marco, un uomo, cosa ne pensa? Ma io, come ho detto prima, considero le cose in maniera leggermente diversa. Assolutamente demenziale coloro che praticano sport che possono lasciare il segno per tutta la vita, come abbiamo visto in pugili che hanno malattie in seguito alla loro attività. È assolutamente demenziale, mancanza di rispetto nei confronti. Guardi che la prima causa di incidente fisico sul maschio italiano di età media è l'incidente del menisco o dei legamenti a calcetto. Questa è la prima causa di lesione. Sono i 40 anni che giocano a calcetto. Però non sono così invadenti come quelle che restano con il pugilato. Beh, uno rimane zoppo per la vita. Quanto riguarda il resto, così le lascio anche tempo per gli altri, considero assolutamente demenziale la mancanza di rispetto sia maschile che femminile per certe forme di esibizionismo che lascerei assolutamente prive di ogni significato. Vabbè, a lei non le piacciono, a lei queste cose non piacciono, c'è nessun problema. Ballardini, velocemente. Ma io dal tuo punto duplice di vista, osservatore dello spettacolo, della rappresentazione e cultore di arte marziale. Ma infatti, proprio vorrei fare una citazione di Debord qui. Debord poi in sostanza aveva previsto che tutta la società sarebbe andata verso la spettacolarizzazione, quindi si spettacolarizza anche il corpo. E quindi questo spettacolo, in realtà, io al di là del valore moralistico di tutte le osservazioni che si sono sentite, è soltanto l'estraniazione del sé da se stessi, ed è anche una forma di pornografia adolescenziale, va bene come... Sì, ma non è lecita, se uno si diverte è non lecito, tutto è lecito, però bisogna anche capire che livello di maturità dell'individuo a che livello corrisponde. Cioè, in sostanza, le donne che poi hanno partecipato alla proiezione del film decretando il successo di Cassetta, che non si illudano i produttori, in realtà ci sono andate tutte quelle che avrebbero voluto partecipare agli spettacoli dal vivo e che non avevano il coraggio di andarci. Scaldate già dalle sfumature di grigio di questa estate. Esatto, che è un altro successo di Cassetta, inutile. Ma... Ecco, però vedi che i due fenomeni messi insieme una riflessione la inducono. Un certo modello di uomo viene tolto comunque perché viene ritenuto dannoso, pernicioso, negativo, che è il sano vecchio pugile. Poi uno può prendere tutte le distanze che vuole, l'uomo che combatte, è l'uomo la cui nudità era funzionale a uno sport o a un combattimento. E viene comunque, riaffiora questa figura di maschio che è maschio soltanto l'esteriorità, sembra le pubblicità di profumi, di Dolce Gabbana, grandi maschioni ma molto poco maschi. Riusciamo a unire i due argomenti in un unico trade union, che sarebbe il moralismo che avanza. Qui si parla di moralizzazione, ma quello che si vede avanzare è soltanto una forma bieca di moralismo, per cui abbiamo sentito anche dei commenti che condannavano gli sport da combattimento. Gli sport da combattimento, signori cari, sono le discipline più formative, educative che esistano. Noi ci siamo dimenticati che nell'antichità facevano parte integrante del curriculum educativo dell'individuo, perché davano un alto senso morale e nessuno si faceva male. diciamo che oggi il dilemma quando uno ha un figlio sul far dell'adolescenza è mandarlo a una scuola di lap dance o mandarlo a un corso di karate. Silvana De Mari, qual è la tua risposta? Di mandarlo a un corso di karate. Le maschi e femmine sono assolutamente diversi ed è assolutamente diversa anche la loro sessualità. Noi abbiamo avuto, mi scuso di perdere tempo in questa cosa, ma questo va chiarito, il femminismo ha avuto due pilastri che sono antitetici. Scusa Silvana, ricordo che Silvana De Mari è una scrittrice di genere fantasy, una saggista, ha scritto vari libri, l'ultimo La realtà dell'orco che uscirà a ottobre per l'edizione Lindau, grande scrittrice di fantasy ma da noi grande espressione di pensiero alternativo. Grazie, anche medico, conosco il sistema nervoso centrale anche e medico. Conosco l'endocrinologia, maschi e femmine sono radicalmente diversi. Il movimento di emancipazione... Silvana De Mari in Africa ha scucito donne infibulate per un vario periodo della sua vita, quindi ha messo le mani in cose ben più terribili che le signorine che vanno a vedere gli spogliarellisti. Ok, quindi il movimento di emancipazione era un onesto e sacrosanto movimento che voleva l'emancipazione da leggi discriminatorie. Era fatto da gente che amava se stessa, amava la vita e che ha smesso di esistere nel momento in cui le leggi discriminatorie sono scomparse. Il movimento di liberazione femminile, assolutamente antitetico al primo, insisto, già definito così, branco di isteriche galline, sono quelle che bruciavano i reggiseni in piazza perché vi volevano distruggere il gioco di seduzione tra maschio e femmina su cui è basata la vita. E sono quelle che hanno distrutto questo gioco e che hanno causato una progressiva deviazione della società. Essere maschi è considerato una specie di colpa a prescindere. Vai a guardare la partita, sei mica fidanzata con uno che guarda la partita, orrore, il collettivo dove queste robe erano cessate. Per cui si è avuta un'imposizione alle femmine della sessualità usa e getta maschile. Noi abbiamo un concetto diverso della sessualità e noi abbiamo un concetto molto forte, l'istinto materno. Una donna che non abbia l'istinto materno sta facendo la guerra alla propria biologia. Il cervello rettiliano e il cervello limbico, i due cervelli più antichi, vogliono il bambino e vogliono un uomo che mi mantenga. Io ho un impulso sessuale meno forte di quello degli uomini, il testosterone, dinamite, chiesto progestinici, robetta. Una donna normale pensa al sesso molto meno di un uomo normale. Noi pensiamo al sesso due volte al giorno, i maschi due volte l'ora. Perché io devo restare fredda. Infatti per questo ci si incontra poco, devo dire. Esatto, perché se gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere, se andiamo quasi fatti per non combaciare. Sì, però Silvana, se non ci pensassimo due volte l'ora, non rappresenteremmo quello che dobbiamo rappresentare. Esatto, bene. E io mi eccito all'eccitazione che un uomo ha di me. Io devo essere bella perché io mi eccito sulla sua eccitazione. Lo so, si chiama figa di legnismo, però è così. Lo so. E un uomo che si abbia sprecato il suo tempo a farsi depilare e a fare i pesi, a me risulta comico, perché la vera verità è il guerriero, quello che usa la sua forza per mantenere me in... Oh, brava Silvana, mi chiedi allora, di questa rappresentazione della forza e del corpo maschile, che è il match di pugilato, l'incontro di karate, di taekwondo, via dicendo, perché viene considerato, nella ipotesi che abbiamo analizzato, e aspettiamo ancora il rappresentante dei pugili italiani che ci dica il suo punto di vista, viene considerato qualcosa di dannoso per l'integrità della famiglia? Ma certamente, perché noi abbiamo interiorizzato il movimento di liberazione femminile. Ogni donna che ne abbia fatto parte, mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, soffriva di dismorfofobia, alterazione dell'io corporeo e disturbi alimentari. Queste però avevano una dialettica straordinaria e hanno creato che le caratteristiche maschili, inclusa l'aggressività, che non è spazzatura, è una roba che madre natura ha montato molto più forte nel cervello maschile, altrimenti non sopravviviamo all'evoluzione. L'aggressività è spazzatura, è un crimine a prescindere. Al contrario, le arti marziali, io mi scuso, ma ho una maggiore simpatia per le arti marziali, meno per la box, a meno che non ci siano dei sistemi per evitare i traumi ripetuti sul cranio, perché il coso demente è anche una roba piuttosto grave. E il pugile suonato, dici. Esatto, però anche la box, una volta che abbiano il caschetto in testa come le Olimpiadi e si evitano i colpi sui reni, è una cosa fondamentale, perché l'aggressività maschile trovi uno sfogo entro le linee d'onore e fanno quello che fanno i cuccioli, si allenano la guerra sperando che la guerra non ci sia mai, ma i cuccioli devono allenarsi, e nei cuccioli di leone si allenano a fare a botte sia i maschi che le femminucce, nei cuccioli di scimmie antropomorfe, quelli secondo lui Darwin, con cui non siamo imparentati, solo i maschi, perché solo i maschi sono cacciatori, le femmine sono iperempatiche. Un'altra volta avevamo fatto una discussione di questo genere, un insegnante di arti marziali ha detto la verità: le donne non picchiano perché hanno paura di far male. È così, io ho l'empatia, devo tirare su il mio bambino, il maschio non ce la deve avere perché altrimenti nessuno mi sfama. 800240024, stiamo parlando di diverse valutazioni di ciò che sia bene e sia male rispetto al corpo maschile, alla caratteristica più essenziale della mascolinità, alla virilità, alla rappresentazione della nudità maschile, secondo vari parametri, vari punti di vista. Il servizio pubblico pare che abbia pensato che sia giusto evitare di far vedere in prima serata spettacoli di combattimento, box, taekwondo, karate. Il presidente della Federazione Pugilistica Italiana, Franco Falcinelli, che l'abbiamo trovato, che adesso finalmente è in linea, ha risposto in maniera abbastanza veemente ieri sulle agenzie di stampa. Secondo lui questa è un'interpretazione sbagliata, quelli che sono i parametri di una formale censura o semplicemente l'intuizione dettata da un retaggio culturale ormai obsoleto e fuori moda. Scrive al direttore della RAI Gubitosi che il pugilato è lealtà, educazione al rispetto delle regole dell'avversario, è verità della competizione. Queste letture in realtà di Toglio dalla prima serata appartengono a un retaggio culturale obsoleto e fuori moda. È quello che stiamo definendo questa mattina. Sono retaggi ultimi di una visione deleteria, distruttiva, della giusta collocazione nell'equilibrio dell'umanità fra femminilità e mascolinità, che ancora in una sorta di idea di educazione, di rigore, di austerità hanno questi strascichi. Franco Falcinelli è d'accordo ancora o ha cambiato idea? No, io non cambio idea perché fa parte della nostra cultura riconfermare, riaffermare che la boxe è principalmente uno sport con alti contenuti educativi. Io pensavo che il campionato italiano femminile fosse dato proprio in prima serata perché fosse visto dalle fasce giovanili. Ah, le prime a farne le spese sono state proprio le donne, le prime a essere state tolte la prima serata. Infatti, tra l'altro noi abbiamo fatto una battaglia, mi ricordo, nel 2001 con l'allora ministro Katia Belillo. Che era una pugile, mi sembra. Beh, insomma, faceva kickboxing, qualcosa del genere, sì. Non era pugile, ma insomma. Beh, una volta menò una sua collega in televisione. Beh, ecco, anche questo è un tabù da sfatare, cioè chi mena non è. Però lo fece. Non è sempre un pugile, spesso i pugili non aggrediscono solitamente, anzi evitano le risse proprio perché hanno mezzi tecnici che potrebbero far male a chi in qualche modo li provoca. Ma lei poi ha parlato con Gubitosi, ha chiarito questa vicenda, perché la RAI poi a mezza serata ieri ha detto ma no, non è per motivi di morale, non è per salvaguardare le famiglie, ma di fatto sembra che sia così. Voi cosa sapete di esatto da questo punto di vista? Ma niente, ufficialmente noi abbiamo letto sui giornali la loro retromarcia, ma in realtà abbiamo sostanziali, diciamo così, informazioni che è stato provocato da questa cultura ancora. Ma dove nasce commissione di vigilanza? Chi è che per primo ha detto, secondo lei, via gli sport violenti dalla prima serata? Ma io credo che il direttore generale sia un esecutore di fatto delle volontà anche della politica, quindi forse la commissione vigilanza, qualche grande cultore della fratellanza. Fratellanza è un termine ambiguo, diciamo, ecco, del volersi bene, voler tante cose. Del volemose bene. Considerare un pugno come virtù e abilità tecnica, ma come qualcosa che deve per forza far male. Diciamo, è una deriva buonista, un po' parrocchiale, per cui dice diamogli la racchetta alla ping pong, ma non fate a botte. Sì, ma questo non risolve, guardi, i problemi della nostra gioventù, anzi li peggiora, perché noi dobbiamo rinforzare le qualità morali dei nostri giovani, che sono appunto, come diceva Giovanni Paolo II, lealtà, perseveranza, coraggio. Ma però non può chiamare un papa testimonial della difesa della boxe. Nel giubileo del 2000 Giovanni Paolo II, sì, ma tutto faceva meno che fare, ha fatto l'attore, ha fatto tante cose, non ha fatto il pugile, almeno non ci risulta. Ha sciato, ha nuotato, ma non ha fatto il pugile. Lui noi per valorizzare diciamo così i valori dello, le qualità formative dello sport, insomma, produsse questa bellissima frase che ovviamente dovrebbe essere di fatto maggiormente... però di fatto Falcinelli, che ricordo che è appunto il presidente della Federazione Pugilistica Italiana, di fatto vi risulta che comunque i match di pugilato e di sport di combattimento saranno tolti dalla prima serata? Per questo è il dato che ci interessa. Ma in questa occasione dei campionati femminili è stato fatto. Adesso speriamo che la RAI ci ripensi e che anzi produca e in qualche modo agevoli l'informazione polivalente sugli sport di combattimento, tutti che hanno valori veramente etico-sociali importantissimi. Oh, grazie Presidente, veramente. Bruno Ballardini, che è cultore di arti marziali, d'accordo con lei. Ballardini, una tua nota su questo. È vero, ma chi vuole ironizzare dice non ci saranno più nemmeno i film di Rocky e nemmeno gli spot pubblicitari dedicati al pugilato, ma non è che non si vedano non credo, si coprirebbero di ridicolo, diciamo, cioè se nella commissione di vigilanza hanno deciso questo è per aver scambiato l'invito alla moralizzazione del paese da parte probabilmente di Monti col moralismo, che sono due cose molto diverse. I valori che le nostre discipline trasmettono sono di altissimo livello educativo e formativo, e inviterei le mamme e i genitori che non sono in grado di educare i figli oggi di mandare in palestra a fare karate o pugilato, che sono le due più nobili arti che ci sono come strumento educativo. Tu che analizzi la pubblicità, però nella pubblicità ne passano tanti di messaggi legati alla corporeità. Se giustamente ci deve essere una sorta di braghettone all'immaginario degli italiani, perché è giusto che meditino, riflettano, facciano penitenza, deve valere per tutto. Allora non vogliamo nemmeno vedere gli uomini ammiccanti degli spot, dei profumi, dei vestiti, ma forse anche nemmeno... Ecco, esattamente. Allora, mi hai tolto le parole di bocca. In realtà, se vogliamo fare i moralisti, bisogna farlo a 360 gradi. Quindi non è corretto che si spostino degli spettacoli come quelli degli sport da combattimento in altra fascia, e si mantenga ad esempio la pubblicità dei lubrificanti sessuali per non far cigolare il letto quando si scopa, tranquillamente in fasce in cui ci sono tutti quanti, anche i bambini, a vedere. Poi chiedo: mamma, cosa vuol dire quella cosa? Perché quella signora sta pancia sotto e lui gli spalma quell'olietto sulle chiappe? Esatto. E poi deve rispondere. Esatto. Vabbè, è così, le cose stanno così. Silvana De Mari, ritiraci su un attimo, sennò scivoliamo, allora, scivoliamo assieme al lubrificante. A me quella pubblicità invece non era sembrata così male. No, ma nemmeno a me, io sono ma... un ragazzino, come funziona la società? La trovo divertentissima, anzi, però esatto, tanto anche lasciamo perdere. Però diceva allora, Ballardini, Silvana, se bisogna essere bacchettoni, allora su tutto, non solo sulla box. Sono d'accordo. Un'ultima cosa: la prostituzione femminile, che sempre c'è stata e sempre ci sarà, non è solo il sistema più rapido e brutale ma efficiente di distribuzione dei redditi, soprattutto quando si è volontaria, chiaramente, ma è anche, quando si è volontaria, etologicamente vincente. Nel senso che un uomo mi dà il suo denaro, che sarebbe il suo territorio, in qualche maniera io mi sento, ho un valore. È molto meno grave per una donna prostituirsi che darla via gratis a casaccio con tizi di cui non gliene frega assolutamente niente. Peraltro, bella teoria questa qua, sì. Ci sto pensando. La prostituta può essere una figura estremamente carismatica che può diventare regina. Il gigolò è una figura etologicamente perdente. Faccio l'amore con uno che ho dovuto pagare è l'ulteriore prova che non valgo un fico. Se invece faccio l'amore con uno che per venire con me ha dato 50 euro, almeno valgo 50 euro. Poi sul 500 è meglio. E il gigolò è una figura etologicamente perdente che mai per nessun motivo può diventare capo di qualche cosa, re, comandante, mentre la prostituta sì. Il gigolò, quindi, la donna... Anche perché il gigolò è ambivalente, diciamo la verità, si divide in una doppia clientela, è la sua caratteristica. Ed è un'estetica di tipo omosessuale. Le donne che si sono fatte imporre una sessualità maschile arrivano a 40 anni dopo aver avuto 26 maschi. Per una donna non è così divertente, fa l'amore con una qui di me non gliene frega niente, è una noia abissale. E arrivano a 40 anni, dice: ma come, ma forse un uomo, un bambino mi farebbe più piacere, eccetera. E quando è molto tardi, si rendono conto che non hanno attuato il loro compito etologico, che era invece un uomo che mi ama. Deve farti una domanda, Bruno Ballardini. Ecco, sì. Ciao, scusami carissima, voglio farti una domanda veloce. La tua opinione, che cosa ne è stato della liberazione sessuale di cui ci siamo occupati negli anni 70? Allora, la liberazione sessuale è stata da un lato una roba bellissima, dall'altro una tragedia, perché non si è capito il termine di libertà. La libertà non consiste nel fare quello che voglio nel momento in cui mi viene in mente, questa è la compulsione, ma nell'assumermi la libertà di quello che sto facendo. Grazie agli anticoncezionali finalmente non ho più la schiavitù e l'obbligo delle gravidanze indesiderate, tutto quello che volete, ma io mi assumo la responsabilità di quello che sto facendo. Do il mio corpo a un uomo solo che quest'uomo mi piace da pazzi, e se ho in qualche maniera ho già avuto la prova che io sono un valore per lui. Questa è la libertà, altrimenti questi due termini, libertà e volontà, che avrebbero dovuto essere due cose meravigliose, sono diventate una cappa maledetta con cui si creano semplicemente dei deliri di onnipotenza. L'addio al nubilato è una roba sguaiata, copiata dai brutti film statunitensi, che lascia la mano in bocca. Silvana, ti posso fare una domanda? La nostra inviata al cinema ha confermato un dato che a noi ormai sull'orlo del tramonto un po' sconvolge. Com'è oggi le donne sono attratte come oggetto sessuale primario di un uomo dal sedere? Tutte vogliono toccare il sedere e guardare il sedere. Per me è una novità che ho capito negli ultimi 10 anni, ma anche meno, 5 anni. Beh, oddio, devo dire che non è una brutta parte, perché io sono molto affascinata da quello dell'uomo che io trovo l'uomo più sexy del mondo, giuro su Dio, non sto mentendo, è mio marito, per me. E perché è insieme muscoloso, quindi tu vedi la sua forza, e contemporaneamente sotto racchiude lo stelo di Giada, il pene. In più è una parte dove l'uomo si eccita, quindi una cosa del sedere non mi pare così balzana, se no, però è una novità che si è espressa, ecco. Non ho nessun pregiudizio, figurati. Ma se una volta tanto parliamo di maschi, in fondo ci fa bene, non se ne parla mai. Certo, l'idea che dopo i braghettoni di Miss Italia venga l'oscuramento dei pugili combattono ci fa un po' sorridere, in quella dovrebbe essere la deriva educazionale dell'Italia. Bruno Ballardini, velocemente. Vabbè, sull'essere uomini. Essere uomini è andare, cioè fare karate ad esempio, e intendere la disciplina in un certo modo, come quello che sarà mostrato il 20 di ottobre a San Marino in uno stage che riunirà tutto il karate italiano per portare proventi, aiuti alle popolazioni dell'Emilia colpita dal terremoto. Quindi andate sulla pagina di Facebook, che è Karate Unito per la Solidarietà, e cercate anche di partecipare, se non praticando, anche venendo a vedere la manifestazione. A proposito di karate, abbiamo al telefono, ci ha chiamato, ci ha mandato un sms, la chiamiamo molto volentieri, Cristina Rissone. Buongiorno. Buongiorno. Lei è un atleta formidabile di karate. Formidabile non tanto, io faccio parte un po' del passato, sono un po' la carta ingiallita del karate. E adesso carta ingiallita. Sì, vero, insieme alla Nadia Farluga e alla Michela Turci, insomma siamo state le prime 3 donne a partecipare a un campionato del mondo nell'anno 1975. E diciamo che io parlo per me, ma penso di poter parlare anche per la Nadia, che attualmente è una persona che ha 64 anni, un settimo dan ed è una persona straordinaria, che se la vedete non direste assolutamente che è una persona che pratica. Ciao Cristina, diciamolo che uno dei più grandi maestri italiani di karate è una donna. Esatto, ma anche non solo italiano, è mondiale. Mondiale. Questa donna, a parte il palmarès di gare, diciamo di risultati, però al di là di questo è veramente... Cristina, al viva voce nel telefono, dovrebbe toglierlo, sentiamo malissimo altrimenti. Ecco, preferiamo sentirla... Pronto, ecco. Ecco, adesso finalmente, no, sembrava in una stanza lontana e ciò dava un senso cupo. Allora, donne come voi, a quale tipo maschile fate riferimento? Diciamolo chiaramente, allo spogliarellista dal culo levigato che sta affollando i cinema italiani, o dalla vecchia sana maniera di, con tutti i nostri limiti e le nostre debolezze, di essere uomini ancien régime? Posso dirti la verità, noi durante la nostra pratica penso che ben poco tempo abbiamo di vedere queste cose. Però chi pratica arti marziali, voglio dire, altro che spogliarellisti. Non siete certo delle votate alla castità perché fate le karateka. No, però è capitato, soprattutto nei tempi in cui noi facevamo le gare, che non c'erano gli spogliatoi femminili, per cui non ci siamo mai posti il problema di cambiarci nello spogliatoio maschile, quindi non è che il pendaglio da forca vi faceva impressione, visto ma forse neanche ci facevamo caso, perché in caso lì, cioè, c'era proprio una regola, e parlo, ripeto, per quelle che hanno vissuto karate a quei tempi, c'era proprio una regola che facevamo karate e basta, cioè tutto il resto era fuori, ma perché quella era la nostra cultura. Il nostro maestro ci ha sempre tenuto, soprattutto nel periodo in cui dovevamo fare lezione, eravamo sotto allenamento, sotto lezione più intensiva per prepararci alle gare, ma non c'era minimamente il discorso di pensare ad altro nel momento in cui si faceva lezione. Ecco, lei cosa ne pensa allora di questa idea, ammesso che poi sia confermata, della RAI, di togliere dalla prima serata le arti marziali e la box? Secondo lei rappresenta allora qualcosa di diseducativo per le famiglie? Diseducativo sì, nel senso che ciò che loro vogliono far passare per violento non lo è. Io personalmente un incontro di box lo seguo. Però dobbiamo anche metterci in testa che durante il Grande Fratello, quando se le danno di santa ragione a insulti, botte, credo che sia molto ma molto più diseducativo, e i giovani guardano queste cose, che guardare un incontro di arti marziali, anche perché Bruno lo sa benissimo che se noi vediamo, io parlo per il karate, per noi ogni cosa inizia e finisce col saluto, e questa è una forma di rispetto. Sentiamo, sentiamo anche Carlo. Carlo, buongiorno, è un pugile. Buongiorno, senta, dire brevemente che a mio parere non è soltanto un problema di moralizzazione il fatto dell'esclusione di questi sport, è proprio un problema di interesse del pubblico, purtroppo. Secondo lei non interessa al pubblico, quindi è un discorso di marketing? Purtroppo questi sport, che comunque trasmettono dei valori importanti, tra i quali ricordo anche il judo, che non è stato menzionato, sono passati in secondo piano a favore di sport come il calcio, che lei ben conosce, che propone calciatori depilati, calciatori con il petto e, come dicevate prima, il sedere ben evidente, e richiamano un po' il famoso modello degli spogliarelli. Quindi c'è stata una deriva negli sport d'affezione? Secondo me sì. Sempre sul modello maschile, però sempre basato sul modello maschile. Ivan, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono un judoka da diverso tempo, le posso dire che se c'è uno sport assolutamente non violento è il judo. Quindi cosa direbbe i signori della RAI? Che sono degli incompetenti, perché se ci sono degli sport pericolosi, allora bisogna proibire la Formula 1 e la moto, che dopo una corsa tutti vanno come dei matti. Allora sono più pericolosi e disuccativi i rally, le moto, la Formula 1, e allora sono tutti più pericolosi del judo, che penso che insegnano il rispetto e la disciplina e la cultura dell'avversario, il rispetto fino all'ultimo. Quindi mi sembra che in conclusione della trasmissione, tanto saluto gli ospiti, saluto Ballardini, saluto Silvana De Mari, grazie, saluto Gianluca, l'atleta Rissone che è intervenuta, mi sembra molto palese e logico, al di là di quello che poi sarà l'esito, sarà fatto per spostamento dal palinsesto, per migliorare e ottimizzare gli ascolti, sarà fatto perché qualcuno probabilmente in qualche parrocchia ha suggerito allontaniamo va questi sport violenti, c'è già tanta violenza nel mondo, comunque sia, se il modello prevalente diventa quello del film Magic Mike, la RAI sarà costretta in realtà a fare tanti spettacoli con tanti signori che già ci sono, belli, lucidi, performati e palestrati, e le famiglie chissà, forse saranno contente. Ci sentiamo lunedì.